Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. C'erano una volta tre cavalieri spagnoli. Questi cavalieri erano uomini d'onore e facevano parte di un'associazione cavalleresca nata a Toledo nel lontano 1412. Questi tre fratelli erano molto coraggiosi e c'era stato un uomo crudele che aveva violato l'onore della sorella e questo gesto chiaramente non poteva che chiamare atti di sangue. I tre cavalieri però erano evidentemente incompresi dalla società, infatti per questo atto vennero cacciati dalla Spagna e incarcerati nell'isola di Favignana, in cui restarono per un periodo di tempo molto lungo. Ci restarono prigionieri per 29 anni, 11 mesi e 29 giorni e al termine dei 30 anni poterono finalmente uscire. Però, mentre erano in prigione, avevano passato il tempo in modo costruttivo, chiaramente, e avevano... E cosa avevano fatto? Insomma, stai tranquilla, adesso te lo racconto. Okay. Avevano deciso di creare delle associazioni di uomini d'onore valorosi e coraggiosi come loro, che si basassero sui principi dell'onore e dell'omertà. Ma allora sono degli eroi! Ma certo, non sto mica raccontando la storia di gente comune. Ma io pensavo che dovevamo parlare di loschi criminali. Ma figurati! E quali sono i loro nomi? Si chiamavano Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Osso, quando riuscirono a uscire di prigione, decise di rimanere in Sicilia. Mastrosso e Carcagnosso invece erano un po' più avventurosi. Mastrosso si recò in Calabria, dove fondò la 'Ndrangheta, e Carcagnosso si recò in Campania, dove fondò la Camorra. E quindi fecero, insomma, degli atti grandi, gloriosi, no? Si sì. Mandavano le lettere per Natale. Probabile. Probabile. Benvenuti a un'altra puntata di Luce nelle Tenebre. Qui una nuova formazione in studio, ovvero io che sono Stefano. Eleonora. Dal maglione rosso, vorrei aggiungere. Sì, il solito maglione rosso da radio. Come sempre. Fedele alla linea. Giusto. E Valentina. Oggi e durante questo corso di puntate in cui vi accompagneremo parleremo delle origini delle mafie. Infatti dedicheremo più o meno una puntata ad ogni organizzazione criminale principale, ossia appunto Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Insomma, avremo nelle origini della storia. Esatto, da dove parte tutto quanto. E oggi parleremo di Cosa Nostra. Parlaci di Cosa Nostra. Com'è nata? Io non lo so molto bene. Magari tu col maglione rosso sicuramente. Sì, beh, è il maglione della conoscenza. Comunque, se vogliamo parlare delle origini di Cosa Nostra, dobbiamo in primo luogo dire che non possiamo chiamarla così perché è un termine che nasce dopo. Se parliamo comunque della mafia siciliana, le sue origini risalgono al periodo ottocentesco e per quello che possiamo sapere dagli atti che abbiamo, sicuramente possiamo rinvenire alcune delle prime notizie nel primo ottocento, nel periodo risorgimentale. Dobbiamo inquadrare il periodo storico, in particolar modo possiamo dire che nel 1812 in Sicilia viene abolito e nel regno borbonico viene abolito il regime feudale. Tuttavia anche dopo questa abolizione rimane in piedi il sistema del latifondo. In particolar modo i latifondisti, che erano i grandi proprietari terrieri, avevano la necessità in questo periodo di una classe intermedia che potesse controllare i contadini. Si affermano quindi le figure dei campieri e dei gabellotti, che erano rispettivamente le guardie armate dei latifondi e quelli che potremmo definire come mezzadri, un ceto intermedio che teneva l'ordine nelle campagne. Quindi erano dalla parte dei governanti, non erano contro i governanti. Certo, sì, in questo periodo erano dalla loro parte, nel senso che contribuivano a mantenere l'ordine nelle campagne, e possiamo rinvenire in queste figure i primi casi di mafiosi, diciamo. In particolar modo, se vogliamo invece risalire alle origini giudiziarie, anche perché siamo una trasmissione principalmente di giuristi, se non facciamo anche dei riferimenti giudiziari, sì, rompiamo un po' le balle noi giuristi, però insomma, il termine mafia in senso giuridico lo troviamo per la prima volta nel 1865 in un rapporto del capo procuratore di Palermo. Infatti parlo di Palermo perché, nonostante il fenomeno si fosse sviluppato originariamente nelle campagne campagne, il principale luogo in cui si può parlare di una formazione di vere e proprie organizzazioni mafiose è Palermo e in generale la provincia palermitana. Infatti è proprio in questo luogo che cominciano a svilupparsi vere e proprie organizzazioni tra i clan, tra le varie cosche, e che cominciano a svilupparsi le attività che poi saranno proprie della mafia, quindi la corruzione di politici e l'organizzazione di attività criminose sul territorio. Comunque, insomma, adesso, dopo la canzone che lanceremo, passiamo alla mafia nel Novecento, che è il periodo in cui forse la conosciamo meglio. Per restare in tema di questo periodo, lanciamo la canzone che è La Ninna Nanna di Mazzarò di Caparezza. Buon ascolto! L'uomo nero, non temere l'uomo lupa, non temere l'uomo cupa, temi solo l'uomo astuta. Lui fa da tutto, prende tutto ciò che può. Non fidarti nemmeno un po', non fidarti nemmeno un po', non fidarti nemmeno un po' di chi fa come Mazzarò. Sto parlando di Mazzarò, dico Mazzarò, memorizzerò, se lo ammazzerò, già lo so che lo rivedrò come Lazzarò. Se ti si avvicina lo spezzerò come pane asimo, anzi no, come pan di zenzero. Mazzarò come verga io ti romanzerò. Vuoi la roba, la mia roba no, sono come una velina, non te la do. Nemmeno se fai go su go, nemmeno se fai rock and roll, né se diventi stato symbol, né se ti metti in baby doll, i miei sentimenti non te li do. Giù dal letto se non viene quel maledetto di Mazzarò, che quando ero piccolo mi rubò il cavallo a dondole di robot. La Mac 5 go go go, il lecca lecca con il bonbon, il vasino con la pupù, persino il cuculo del cucucu. Super Goomba alla TV, Crisu Scooby Doo, la signora Minu, mi lascio solo Winnie the Pooh, che se lo ficchi super gli... Di chi è questo ciondolo? Di Mazzarò. Di chi è il cavallo a dondolo? Di Mazzarò. Di chi è il gioco da tavolo? Di Mazzarò. Di chi? Di Mazzarò. Di chi? Di Mazzarò. Ninna nanna ninna no, sta arrivando Mazzarò, resta sveglio che se no porta via quello che può. Ninna nanna ninna no, sta arrivando Mazzarò, resta sveglio che se no porta via quello che può. Poi ti botto fui giovanotto mentre lui in più divento corrotto, copri moneta di un ternalotto, comprerò le dita e l'indotto, fu padrone di ogni prodotto, fumo dello di ogni picciotto, voglio roba, questo è il suo motto, vuole roba che venga sotto sto galleotto, stolto gli do un cazzotto sul volto, restituisca il maltolto, sì lingotto su lingotto. Dove ero rimasto? Ah sì, Mazzarò, comperò tutto ciò che poté, quando poi volle me, dissi no, lui disse uè, io chiusi gli occhi per un po' e con orecchie da Dumbo ascoltai quel manigoldo che volo via con un giumbo, spalancando le orbite, ma accorsi che coi suoi denari Mazzarò muta i miei pari in quei dementi dei paninari. Fighettini filoamericani con capi firmati, chini come cani con i capi più affermati. Svegliati bimbo, via dal limbo degli assonnati, che sei tra i suoi trofei più desiderati. Di chi è la banca, eh? Di Mazzarò. E la casa editrice, di chi è? Di Mazzarò. Di chi è l'azienda tessile? Di Mazzarò. Di chi? Di Mazzarò. È già di Mazzarò. Ninna nanna ninna, che se no porta via quello che può. Ninna nanna ninna no, sta arrivando Mazzarò, resta sveglio che se no porta via quello che può. La mia donna, bella donna, pure in unisex, a letto siamo Mulinex, la metto a cuccia come Rex, col mio Vixinex vado spedito tipo FedEx e vivo momenti piccanti emulanti Tex-Mex. Ma in un multiplex vide Mazzarò con due transex, lui le disse ti porto ad Hollywood come il Frankie di Relax, beviti un paio di Becks e facciamo del saldo sex. E da quel giorno fu la mia ex Duralex. Spaventati, non farti comprare da Mazzarò, non cedere al suo rococò, né contratti cococò, guru guru qua qua, no no, questo pupo non te lo do, gli sto insegnando il metodo che a te farà d'antidoto. Mazzarò ha comprato tutto, non gli manca niente, è proprietario di ogni ente anche inesistente, è un avido chirurgo che vuole il cuore della gente, tu resta sveglio perché lui fotte il dormiente. Di chi sono le pensioni? Di Mazzarò. Le comunicazioni? Di Mazzarò. Di chi sono i cromosomi? Di Mazzarò. Di bentornati. Allora, facciamo un bel salto temporale. Ora andiamo nella Sicilia del primo Novecento, periodo giolittiano, diciamo. Allora, si sa che in quel periodo lì la classe dirigente si era conquistata una sorta di autonomia, perché lo Stato centrale italiano non si occupava molto degli affari della Sicilia. E comunque mi piace ricordare questa parte storica, perché è proprio qui, in questo periodo, che nascono i primi movimenti antimafia. Sono dei movimenti che partono dal basso, dalla popolazione, in particolare sia da una componente cattolica guidata da Sturzo, sia da un gruppo di socialisti guidati da Bernardino Verro. L'idea che ebbero questi pionieri dell'antimafia, chiamiamola così, è appunto quella di creare di sostenere le rivendicazioni salariali dei braccianti e aiutare così la massa dei contadini poveri schiacciata dal peso della malavita. Loro crearono appunto delle cooperative di lavoro che consistevano nel fatto di dare ai contadini una o più porzioni di terra, i quali poi si impegnavano a pagare il canone direttamente ai proprietari terrieri, quindi senza la mediazione dei gabellotti malavitosi. Poi niente, ovviamente questi sono i primi movimenti che andarono comunque via via sfumando, con anche l'omicidio di Bernardino Verro pochi mesi dalle sue elezioni a sindaco di Corleone. Successivamente facciamo un altro passo avanti e arriviamo all'epoca del fascismo. Durante quest'epoca, fondamentalmente, l'intento dei fascisti, e quindi del duce, del sommo duce, che salutiamo dall'altra tomba e spero che ci rimanga, francamente, e volevano fondamentalmente eliminare, a vantaggio dei proprietari terrieri, questi legami, perché appunto pensavano che sia i piccoli che i grandi proprietari terrieri fossero vittime di queste mafie, senza capire il meccanismo di complicità che c'era al loro interno. E infatti, per fare questo, fondamentalmente, in prima battuta fu affidato il compito di debellare la vita malavitosa al generale Cesare Mori, detto il prefetto di Ferro. Lui fece Era molto molto molto cattivo. Era molto molto duro. Infatti fece una serie di blitz, arrestò un sacco di persone, colpì anche molti in alto. Addirittura colpì Don Vito Cascio Ferro, che si fece il carcere duro per molti mesi. Però, a quanto pare, come al solito in questo paese, non si smentisce alle origini, nel momento in cui si tocca la politica e i piani alti, la gente deve essere fermata e di conseguenza viene premiata e spostata. Infatti il duce lo coprì di onori e lo accantonò, sostanzialmente. Insomma, stava scoprendo un po' troppo, quindi... Però adesso tirerò fuori le mie abilità amministrative e le mie abilità giuridiche e dirò che... Vai, stupiscici! Attenzione, questo è un momento molto importante. Infatti, nel codice Rocco del 1930, che è il codice penale del fascismo, non esisteva il reato di associazione mafiosa, perché non era inserito, ossia non era presente il 416 bis, che è stato inserito successivamente alla morte del generale Dalla Chiesa, ma esisteva solamente il 416, in quanto il duce affermava, così anche come per l'omosessualità, che il problema della mafia non esisteva dopo l'azione di Mori. Invece, come al solito, c'era fondamentalmente questo solito intreccio tra la vita malavitosa che è le istituzioni, e si è sostituito fondamentalmente all'epoca del fascismo. Stema, con queste capacità giuridiche mi stupisci, ti abbiamo contagiato. Purtroppo credo proprio di sì, dovrò andare in terapia. Conquisteremo il mondo. Però appunto riallaccio, ridò la parola a Valentina, perché comunque sia, se si sono spostati dalla Sicilia sono andati da un'altra parte. Infatti la mafia ovviamente non si fermò soltanto all'interno dei confini della provincia siciliana, ma nel periodo delle grandi migrazioni che partono negli anni 70 dell'Ottocento incomincia a trasferirsi in America e a concentrarsi soprattutto l'insegnamento più famoso si ha appunto nella zona newyorkese, precisamente a Brooklyn. Broccolini. Sì, era proprio questo il modo con cui i siciliani chiamavano Brooklyn. E niente, per farla breve, io vorrei comunque sottolineare il fatto che la differenza tra la nascita di queste due mafie, cioè se mentre in Sicilia comunque era un'associazione criminale che però partiva dalle classi dirigenti, la mafia statunitense invece nasce come una sorta di... cioè da una società etnica, da un'etnia particolare che si vuole difendere dalla società americana, che era comunque, aveva le sue pieghe xenofobe, mica da ridere. E in ogni caso incominciò a fare una rete di traffico e di attività come il controllo delle migrazioni, attività di contrabbando, tra cui anche la cosiddetta mano nera, cioè l'imposizione del pizzo, attività radicata soprattutto nella zona di New York. Ok, facciamo un piccolo passo temporale e andiamo al periodo roosevelliano, con la nascita del New Deal e quindi con la nascita della società dei consumi di massa. Ecco, la mafia qui non poteva di certo stare indietro e dovette anche lei fare un piccolo passo avanti e trasformare un po' la sua organizzazione. C'era un bravo ragazzo nato proprio con seria educazione mafiosa, Salvatore Luciani, ha detto anche Lucky Luciano, che niente, diciamo che sfruttò la palla al balzo, fece qualche omicidio di qua, qualche omicidio di là, qualche alleanza di qua, e creò una nuova associazione detta appunto Cosa Nostra, che divenne una sorta di holding internazionale dell'affarismo mafioso, che incominciò quindi a espandere i propri orizzonti di influenza, tra cui il traffico degli stupefacenti, anche il gioco d'azzardo, addirittura alla prostituzione, cosa che diciamo che dai giorni nostri la mafia non ha perso. Ma adesso facciamo uno stacco e lanciamo una canzone, sempre per rimanere nei temi delle nostre epoche. Vi lasciamo con la canzone Baroque Boogie dei Diablo Swing Orchestra. cuffie, ruru, brica. Dopo questa canzone carichissima torniamo in studio e passiamo alla rubrica Buffie. Come avete potuto sentire prima nel nostro fantastico jingle, che ha richiesto moltissimo impegno. Che ha richiesto tantissimo impegno. Parleremo di un film di appunto Sergio Leone, non Il buono, il brutto e il cattivo come richiamava chiaramente la sigla, ma parleremo di C'era una volta in America. C'era una volta in America è l'ultimo film di Sergio Leone, che è stato prodotto e uscito nelle sale nel 1984 e sempre accompagnato dal grande compositore Ennio Morricone, che per fortuna è ancora in vita e spero di vedere un giorno un suo concerto perché è veramente bravissimo. Però passiamo al film. C'era una volta in America parla della storia di questi giovani ragazzi di New York, appunto, che decidono insieme di fare una società fin da ragazzini e guadagnano alla fine, quando diventano grandi, durante la crisi del 29, loro hanno un potere spaventoso nelle loro mani e soprattutto 3 milioni di dollari dalla loro parte, grazie anche al fenomeno del proibizionismo, delle varie leggi che sono state introdotte nel corso del tempo del proibizionismo e della crisi americana. Il film ha due correnti narrative, una ambientata nel passato e una ambientata da quando sono grandi fino ai giorni degli anni 60 verso gli anni 70. C'è ovviamente un cast d'eccezione con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern e altri grandissimi attori, ed è un film che consiglio la visione, perché sia da una parte narra una storia appunto come quella della società americana degli anni 20, sia dall'altra parte comunque sia è una storia anche molto umana, perché comunque sia c'è la redenzione del protagonista, c'è la rivalità tra vari amici che sono pronti a farsi lo scalpo per i soldi che si sono accumulati, c'è questa storia di doppio giochismo, una storia piena di passione e tradimenti. È un film molto bello. Però l'unico forse problema per quelli che non sono tanto abituati a guardare il film è che dura 4 ore. Insomma, preparate i popcorn. Cioè, cominciate a vederlo fondamentalmente un'ora presto, anche perché quando lo vedo. Cioè, da prendersi un pomeriggio intero, dai. Sì, anche perché l'ultima volta che l'ho visto io era in Piazza Maggiore, molto bello, versione rimasterizzata tra l'altro, e quindi è andato dalle 22 alle 2 di notte. Però assolutamente molto bello, perché comunque sia è uno dei capolavori del cinema moderno, secondo me. Ed è anche l'ultimo lascito di Sergio Leone, che è scomparso 2 anni dopo, nel 1986. Bene, detto questo, vi salutiamo. Ciao amici, ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Venerdì prossimo, e vi non lasciamo mancate. Con appunto una canzone di Ennio Morricone, Speak Easy, dal film. Ciao! Ciao!